vicenda. Tu mordi la notte fino all'osso del sogno. Dimentica i giorni deserti di pace che portano tregue nell'apnea delle aree.